America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Last night on my orders, America's armed forces began strikes against ISIL targets in Syria. Un attacco aereo in Siria. Gli Stati Uniti dunque, dopo aver anticipato che avrebbero potuto attaccare il territorio siriano, lo hanno fatto contro la base di un gruppo terroristico che si chiama Kara San. Sentiamo il presidente Barack Obama. The strength of this coalition makes it clear to the world that this is not America's fight alone. Above all, the people and governments of the Middle East are rejecting ISIL. Ecco, Obama ha parlato ieri mattina dal prato della Casa Bianca mentre stava per prendere l'elicottero per venire a New York, dove ieri ha partecipato prima ai lavori sull'ambiente, dove da oggi ci sarà l'Assemblea Generale dell'ONU, dove pronuncerà un discorso storico, molti dicono, che avrà come tema centrale la guerra contro il terrorismo, la guerra contro l'ISIS. Come avete sentito, le parole di Obama precise sono state queste: abbiamo cominciato a colpire gli obiettivi in Siria con i nostri alleati. La forza di questa coalizione dà un segnale chiaro al mondo: questa non è solo una battaglia dell'America. Facciamo un passo indietro. Chi mi segue ricorderà il vertice della NATO a Newport. Ebbene, fu lì che si decise di partire con un attacco contro l'ISIS e di autorizzare possibili attacchi in Siria. La stessa Gran Bretagna, che ospitava il vertice, si schierò al fianco degli Stati Uniti dicendo che nel caso ci fosse stata necessità avrebbero partecipato a degli attacchi aerei. Ecco, gli attacchi sono avvenuti, ma non sono avvenuti contro l'ISIS. Sono avvenuti contro questo gruppo terroristico. Ecco, ho avuto ieri una conversazione off the record molto interessante con funzionari della Casa Bianca, i quali hanno dato a me e a un gruppo di altri giornalisti molte informazioni di background. Intanto, il presidente ha saputo che poteva esserci un attacco terroristico imminente contro l'Occidente, contro obiettivi europei o americani, mercoledì scorso. Giovedì scorso ha firmato la decisione per l'attacco. Il Pentagono, le forze armate americane lo hanno preparato in questi ultimi giorni e ieri mattina l'attacco è partito. Che cos'è Kara San? È un gruppo terroristico non nuovo, perché chi segue l'intelligence sul terrorismo lo conosce. Si è sviluppato in Siria che ormai è terra di nessuno, perché a parte Damasco, dove le forze di Assad riescono ad esercitare un po' di controllo, e la regione intorno a Damasco al nord, il resto del territorio è abbandonato e una buona parte del territorio è sotto il controllo dell'ISIS. Ecco, Kara San è formata da militanti di Al-Qaeda che avevano lavorato insieme per molti anni in Afghanistan, in Pakistan, compagni di antiche battaglie, uomini esperti con esperienza pluridecennale, che hanno trovato questa loro base, un safe haven, come mi ha detto questo funzionario del National Security Council, in Siria, dove hanno potuto costruire la loro base e approfittare delle loro expertise militare, come costruire le bombe e come condurre un attentato vero e proprio. Esperienza di addestramento, come adescare i volontari e prepararli all'attacco, esperienza finanziaria, raccogliere e gestire i fondi necessari all'operazione. Ecco, in questa piccola cittadella terroristica c'era tutto. Per questo gli Stati Uniti hanno bombardato, i risultati, ci hanno detto, sono stati positivi, tutti gli obiettivi che volevano colpire sono stati colpiti. La conseguenza positiva per noi dovrebbe essere quella che non ci saranno attacchi contro l'Occidente, quantomeno imminenti. Resta il problema dell'ISIS. And we've assembled a broad coalition, and last night, by conducting strikes against ISIL targets inside Syria, we took another major step towards getting the job done. Ecco, il segretario di Stato John Kerry ha viaggiato intensamente in Medio Oriente per creare una rete di rapporti. I 5 paesi arabi che si sono uniti agli Stati Uniti per compiere questo attacco aereo contro le basi di Kara San sono l'Arabia Saudita, innanzitutto il Bahrain, gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar e la Giordania. Non c'è la Turchia, la Russia sicuramente non è felice. Insomma, c'è una situazione politica da risolvere, ma c'è un'alleanza molto vasta in questo caso. Non stiamo parlando della guerra contro l'Iraq, che suscitò molte divisioni all'interno dell'Occidente, stiamo parlando di una missione per la quale, come ha detto Obama, tutti, assolutamente tutti, sono d'accordo. Quello che ho saputo è che per ora le azioni contro l'ISIS saranno condotte soprattutto in territorio iracheno, che è più vulnerabile agli attacchi di questo vero e proprio esercito di terroristi. Mentre invece Kara San aveva il compito di condurre degli attentati contro l'Occidente. La Turchia per ora sta a guardare, la Turchia è un problema serio per gli Stati Uniti perché è un membro della NATO, ma allo stesso tempo non vuole dare l'idea che possa esserci un'indipendenza del Kurdistan e quindi ci sono dei problemi delicati da risolvere. C'è anche il problema di Vladimir Putin. Ecco, i funzionari della Casa Bianca mi hanno detto che hanno informato la Russia prima dell'attacco. La Russia è contraria a che ci siano questi attacchi, ma gli Stati Uniti ricordano che già tempo fa, quando Barack Obama si incontrò con Putin, disse: attenzione, perché se noi qui consentiamo ad Assad di andare avanti, finiremo per creare una situazione molto pericolosa dal punto di vista terroristico in Siria. Putin si oppose, decise di sostenere il regime di Assad e oggi, quando ascolteremo più avanti il presidente degli Stati Uniti all'ONU, ascolteremo un presidente che riaffermerà l'obiettivo degli alleati di introdurre un regime change, quindi di far cadere il regime di Assad, anche in Siria. Con questo attacco preventivo gli Stati Uniti, adducendo al fatto che in Siria non ci sono più confini, perché l'ISIS ormai ha distrutto il paese e possono condurre questo attacco senza un'autorizzazione delle Nazioni Unite, quindi senza il rischio di un veto da parte della Russia, e quindi credo che Putin dovrà fare buon viso a cattivo gioco, in fondo anche nel suo interesse, perché il terrorismo di matrice islamica è una minaccia anche per la Russia. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Ieri all'ONU si è parlato di cambiamenti climatici, un tema su cui devo dire molti sono d'accordo, bisogna fare qualche cosa, il problema è che si parla molto e si fa poco. E dunque, in attesa dei discorsi di oggi dell'Assemblea Generale dell'ONU, dedichiamo la canzone del giorno al clima. Dei Jamiroquai, When You Gonna Learn. Che è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.